affrontiamo il problema della quella parte di green chemistry che potrebbe essere la chimica in cui i reagenti sono supportati su matrice polimerica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io uno dei reagenti ce l'ho incastrato a una matrice polimerica e quindi è in fase solida, dopo la mia reazione o riesco a rigenerarlo e non lo butto via, oppure comunque riesco con una semplice filtrazione a sbarazzarmene. E solamente chi ha fatto delle filtrazioni sia in laboratorio che a livello di impianto industriale sa quanto a volte possono essere estremamente complicate queste filtrazioni. Allora, esiste la possibilità di fare una chimica supportata, quindi su una matrice polimerica del tutto inerte, che praticamente occupa tutto il range delle reazioni chimiche che noi conosciamo. Vediamo quali sono questi supporti che possono essere utilizzati. Alcuni sicuramente li conoscete perché sono supporti che vengono utilizzati comunque in chimica organica. Che possono essere, facciamo un esempio, un elenco, Al2O3, SiO2 tra i più comuni, qualcosa supportato su carbone, vediamo che cosa. Il carbone è un supporto sostanzialmente inerte e quindi se noi riusciamo a depositare sul carbone qualcosa, può darsi che se ne aumenti la superficie reattiva, perché noi lo facciamo formare il composto che vogliamo, che ci serve, sul carbone, e quindi la superficie probabilmente reattiva di questo composto sarebbe elevata, e quindi anche se siamo in fase eterogenea, però essendo la superficie molto grande, ci potrebbero essere dei buoni risultati. Le resine solfoniche sono l'Amberlist, il Nafion, e così via, l'acelite. Allora, l'acelite sono sostanzialmente degli ossidi di calcio e di alluminio, quindi possiamo scriverlo così. Al2O3, ecco. Questi sono supporti che, a secondo del tipo di reazione che facciamo, sono sostanzialmente inerti. Ci sono polimeri che sono polimeri sostanzialmente di questo tipo, con una struttura di questo tipo, per esempio, intervallati così, eccetera, eccetera, dove qui, per esempio, ci sono delle fosfine appiccicate a questi benzeni. Quindi, stirene polimerizzato. Lo stirene polimerizzato è una catena di atomi di carbonio alla fine che ha ogni tanto dei pendantif che sono dei benzeni. Su questi benzeni si trova il modo, con delle opportune reazioni, di funzionare l'anello aromatico e di metterci, per esempio, come in questo caso, dei pendantif che sono fatti da un atomo di fosforo legato a due fenili. È evidente che questo tipo di supporto mima il legante classico del nickel, del palladio e di tanti altri elementi della tabella periodica degli elementi di transizione. Quindi, quando noi leghiamo un metallo di transizione a una matrice polimerica di questo tipo, quello che succede è che noi ci troviamo, per esempio, con il nickel, ad avere un nickel legato a queste fosfine, che fa esattamente le stesse cose, o almeno si spera, che potrebbe fare un nickel tetrachistriferinfosfina, un palladio tetrachistriferinfosfina. Il problema è che questa roba rimane, si spera, agganciata alla resina, e non si perde nell'ambiente, si riutilizza. Quindi, da un punto di vista di green chemistry e di inquinamento, dovremmo diminuire l'inquinamento perché questa roba non va perduta. Da un punto di vista di capacità di lavoro, il catalizzatore viene facilmente recuperato o come ce l'abbiamo messo all'interno, oppure le varie resine che ci serviranno a fare questo tipo di operazione vengono comunque rigenerate, se c'è la necessità di farlo, e tutto costa molto meno. Non solo perché costa meno perché le cose si riutilizzano, ma costa meno perché le cose si fanno più velocemente. La semplice filtrazione per separare questi prodotti dall'ambiente di reazione è una garanzia che va in questa direzione. Allora, per esempio, diamo un'occhiata a questo X su carbone. Che cosa può essere? Ma una delle cose più classiche che voi conoscete è il palladio su carbone. Come si fa il palladio su carbone? Palladio su carbone si fa dal cloruro di palladio, sostanzialmente, PdCl2, più sodio boriduro, NaBH4. Questa reazione noi la facciamo sul carbone. Quello che succede è che il sodio boriduro riduce il palladio, perché gli idruri che cosa fanno? Trasformano il palladio di cloruro in palladio di idruro. Il palladio di idruro o idruro cloruro elimina idrogeno e si forma il palladio zero. Ma questo palladio zero si è formato sulla superficie del carbone. Quindi con una grande superficie a sua disposizione per potersi depositare e quindi avere, anche se ce n'è pochissimo, sapete quando si usa il palladio su carbone se ne usa all'1%, al 5% al massimo, e quando tu lavi il prodotto della reazione con acqua, tutti quelli che sono i sali, cloruro di sodio, cloruro di boro e tutto il resto, si scioglie nell'acqua, se ne va, e sul carbone rimane il palladio che si è depositato lì sopra. Quindi alla fine una semplice filtrazione ti porta a un prodotto. Ora bisogna stare un attimino attenti, perché quando voi andrete a fare delle reazioni catalizzate da un palladio su carbone, cercate di utilizzare sempre, quando la reazione vi viene, perché se non vi viene, lo so, è un problema, ma quando la reazione vi viene cercate di utilizzare sempre il palladio della stessa ditta di partenza. Perché c'è scritto sull'etichetta palladio su carbone, ma a secondo di come viene fatto, ci sta che, per esempio, in questo contesto, rimanga del cloruro di sodio, rimanga del palladio cloruro, rimanga, cioè, che ne so, delle specie che sono acidi di Lewis, che sono in quantità catalitica, ma siccome voi state facendo una reazione catalyticamente parlando in quantità catalitica, piccole quantità di qualcos'altro vi disturbano un casino, come potrebbe esserci ancora rimasto del sodio boriduro, o altre cose, perché non solo così lo possiamo fare, il palladio su carbone, ma ci sono altri sistemi. Quindi, eventualmente, le impurezze catalitiche del palladio che voi avete utilizzato devono essere sempre le stesse, perché tecnicamente non lo scrive nessuno nei lavori scientifici. Abbiamo usato, però, cosa si dice nei lavori scientifici, nella parte sperimentale? Abbiamo utilizzato il palladio su carbone di tizio, che è quello che ha fatto sta cosa. Quindi, come per dire nascostamente, usate quello lì, potete anche usarne un altro, ma io però preferirei che voi usaste sempre quello di quella ditta, perché almeno sappiamo che si comporterà in qualche modo sempre nello stesso modo. Possiamo mettere sul palladio qualcos'altro. Ci possiamo mettere per esempio l'MnO2, il biossido di manganese. Come si fa a depositare il biossido di manganese sull'MnO2? Allora, innanzitutto il biossido di manganese sul palladio è una ricetta di un signore indiano che mi sembra si chiami Fatiadi, con la I lunga. C'è un paio di review, una sul Chemical Review abbastanza anzianotta, cioè degli anni 80. L'MnO2 è un ossidante abbastanza blando, non è il permanganato, quindi molte volte hai bisogno di utilizzare un ossidante blando e hai bisogno di utilizzarlo in un ambiente che potrebbe non essere quello acquoso. Quindi l'MnO2 supportato su carbone potrebbe essere il reagente che fa per voi. Per prepararlo basta prendere il permanganato, metterlo su carbone in presenza. Permanganato su carbone, che cosa succede? Si ha un ossido di induzione. Sostanzialmente si forma CO2 e si forma MnO2. MnO4, questo è 4. Sostanzialmente la CO2 se ne va, il carbonato di potassio e se ne va, perché si formerà anche K2CO3, se ne va perché voi lo lavate con l'acqua come al solito, e quello che rimane supportato sul carbone è l'MnO2, che ovviamente non si scioglie nell'acqua, e quindi voi avete una grande superficie molto attiva, sottile sottile, di biossido di manganese, che vi può ossidare un aldeide a un alcol primario o un alcol secondario ad aldeide e a chetone, cioè composti carbonici, senza andare oltre, il che non è poco. In solventi neutrali, che potrebbero essere cloruro di metilene o qualsiasi altra cosa, perché il solvente qui ha veramente abbastanza poca importanza in queste reazioni. Un altro reagente che potrebbe essere di un certo interesse è l'acelite. Allora, l'acelite è un reagente che in laboratorio si usa per due scopi fondamentali. Il primo è un reagente totalmente inerte che serve solo per filtrare. È fatto in modo tale, è una specie di polverina bianca sostanzialmente, sono ossidi d'alluminio, come dicevo prima, e di calcio, che ti permettono di filtrare abbastanza rapidamente cose infiltrabili, come... non so se avete presente... gli alluminati, no, quando voi fate una reazione, cioè avete degli alluminati dentro, dovete estrarre il prodotto da questi alluminati. Gli alluminati in acqua, ovviamente, danno un pappone allucinante e non si riesce mai a filtrare con un filtro normale, perché il filtro dopo pochissimo tempo all'interno dei pori della carta si occlude. L'acelite invece sembra di no, cioè 1, 2, 3 cm di celite in Buchner, ci buttate dentro la vostra sostanza dispersa nell'acqua, i sali d'alluminio, gli alluminati rimangono bloccati dalla celite, ma chiaramente passa molto velocemente tutta la fase acquosa, che diventa limpida ovviamente sotto, e poi la potete estrarre e trattare come vi pare. Oppure la celite viene utilizzata come supporto inerte per alcuni reagenti, e uno dei reagenti più importanti della celite è l'argento. C'è un signore che si chiama Fetizon che ha fatto l'argento supportato su celite. Si prende la celite, si prende ovviamente il nitrato d'argento e... in rapida movimentazione della soluzione, cioè sotto forte agitazione, ci si aggiunge dell'OH- dentro fino a che l'argento non precipita, per esempio, sotto forma di ossido d'argento su celite. L'ossido d'argento su celite è un reagente che può essere sostanzialmente utilizzato per fare le reazioni classiche, le reazioni di ossidazione di aldeidi ad acidi in ambiente molto blando. Ovviamente in questi contesti si usa l'acqua come solvente. Da un punto di vista di green chemistry questa sicuramente è una buona reazione, da un punto di vista del portafoglio no, perché l'argento costa un sacco di soldi. Ecco, questo però va detto, ma questo non toglie che in laboratorio una reazione del genere abbia tutti i connotati per essere una buona reazione. SiO2, biossido di silicio. Il biossido di silicio serve a fare un sacco di cose, soprattutto perché è una sostanza che ha delle caratteristiche... particolare, è una sostanza molto polare, quindi trattiene molto roba polare. La trattiene talmente tanto l'acqua che può essere usato tecnicamente come un disidratante. Quindi tutte quelle reazioni che avvengono perché c'è un equilibrio, e questo equilibrio andrà nella direzione voluta da voi, perché si deve togliere dell'acqua, beh, l'acqua si può togliere facendo la reazione, supportando tutto l'insieme della reazione su SiO2. La quantità di acqua viene agganciata dall'SiO2 e non viene più sbloccata, quindi è un modo tecnicamente per toglierla. Una di queste reazioni potrebbe essere la classica reazione di formazione di un estere, per esempio un estere metilico più SiO2. Ci volete mettere il solvente? Ce lo volete mettere? Non ce lo volete mettere? È uguale, perché alla fine poi questo pappone di SiO2 manterrà SiO2 per NH2O, e alla fine noi avremo il nostro prodotto che è l'estere col metanolo. Analogamente col fenolo più SiO2 più metanolo, metanolo, fenolo e SiO2 in the same way ti danno per esempio l'etere, metilfeniletere. Quindi ovviamente è una reazione sicuramente green, perché non dovete fare come si faceva una volta: prendere il fenolo, farne l'anione col sodio idruro, trattarlo con iodio di metile o col solfato di metile dell'industria. Già avevamo trovato il sistema di farla meglio sta reazione con il dimetilcarbonato. Certo, però a questo punto noi non utilizziamo praticamente niente. Non c'è un mediatore della reazione, c'è semplicemente l'SiO2 che si porta via l'acqua. Se noi volessimo fare questa reazione in un altro modo, portando via l'acqua dal metanolo, non ci riusciamo tanto bene, perché non viene via dal fenolo e dal metanolo l'acqua in questo modo qui. Qual è la limitazione di questa reazione? La limitazione di questa reazione è legata all'acidità del metanolo, cioè col metanolo viene benissimo. Quando si comincia ad andare già con altri alcoli non viene tanto bene. Infatti guardate che sostanzialmente noi abbiamo utilizzato o un acido carbossilico o un fenolo, che sono cose acide, perché se noi volessimo fare un etere con questo sistema, l'etere avrebbe poca possibilità di venire fuori, non ce la fa. Questa è una limitazione un pochino di questa reazione, o comunque bisogna aiutarla con altri sistemi, e allora la reazione diventa complicata, non è più una reazione facile da farsi sostanzialmente. Una reazione che si può fare supportando i reagenti su SiO2 è quella reazione che ci permette di fare le nitrosazioni. Allora, non si sente mai parlare di nitrosazioni. Perché? Perché tutte le volte che noi dobbiamo introdurre un gruppo nitroso da qualche parte, dobbiamo usare degli agenti che non sono proprio una manna che viene dal cielo, perché l'acido nitroso e tutti i suoi derivati sono abbastanza pericolosi per la salute. Tant'è vero che i nitriti che venivano utilizzati come conservanti di alcuni alimenti sono stati eliminati, vengono eliminati. Se ci fosse il sistema di avere a disposizione un reagente nitrosante facile da usare, non sarebbe male. Perché? A livello di organica 1 e di organica 2 i nitrosi derivati vengono presi come cose poco importanti, mentre in realtà hanno una reattività che è meravigliosa. Basterebbe però conoscerla, ovviamente. Allora, una delle cose che noi possiamo fare è la seguente cosa. Si prende NaNO2, che è il nitrito di sodio, ci si butta dentro l'acido solforico e quello che viene fuori è il solfato di sodio, Na2SO4, più 2 di acido nitrico. L'acido nitrico, sostanzialmente, in queste condizioni, in realtà è, se vuoi, scriviamolo come acqua più NO2, è più NO, acido nitroso, scusa, HNO2, acido nitroso. Quindi è acqua più NO. L'NO, che è gassoso, che viene in qualche modo sviluppato da questa reazione, lo facciamo gorgogliare in una soluzione di cloruro di metilene e SiO2, SiO2 in CH2Cl2. Quello che viene fuori dopo un po' è che noi abbiamo una soluzione in cloruro di metilene di SiO2 impolpata, se così si può dire, saturata di NO. E l'NO è un ottimo agente nitrosante, ovviamente. Questo agente nitrosante ci permette di poter fare delle nitrosazioni sempre utilizzando questo materiale, cioè il gel di silice, l'SiO2, che contiene l'agente nitrosante, e quindi noi lo possiamo mettere a contatto con quel prodotto di cui vogliamo fare la nitrosazione. Facciamo un esempio. Ovviamente non staremmo a fare i sali di azonio, sarebbe banale. I sali di azonio si fanno nell'acqua, quindi lasciamo ai sali di azonio la loro reattività in acqua. Teniamo presente che i sali di azonio nell'industria della green chemistry vengono visti male perché si fanno dalle amine aromatiche. Le amine aromatiche sono cancerogene e alcuni dei sali di azonio che servivano per fare i coloranti sono stati eliminati dall'industria perché producevano vari tipi di tumori anche con periodi di incubazione di 30 anni. Quindi te ne accorgevi quando l'operaio era andato in pensione già da 10 anni e gli veniva il tumore. Quindi quei tipi di coloranti lì sono stati sostituiti, però nella chimica di laboratorio, per esempio, vi vorrei sottolineare una reazione di questo tipo. Io ho un'ammina, una metilalchilammina, semplice. Quando io la tratto con questo reagente nitrosante, che è quindi l'SiO2 che supporta l'NO, quello che viene fuori con questo SiO2NO, acido nitroso, potremmo dire acido nitroso supportato su SiO2, se volete, quello che viene fuori è che io riesco a nitrosare la mia ammina. Avrei potuto fare questa nitrosazione su qualsiasi tipo di idrogeno con un minimo di acidità, perché ovviamente l'acqua che ne potrebbe venire fuori da questa reazione, voi tenete presente che io è come se ci avessi l'acido nitroso, HONO, vedi, viene via una molecola di acqua da questa reazione, l'SiO2 ti porta via questa molecola di acqua, sostanzialmente. Beh, quindi posso fare questa reazione anche sul malonato dietilico, perché il mio prodotto finale sarà l'alfa nitrosazione di questo tipo, che non è male. Per quale motivo non è male? Perché questo composto qui, voi sapete che i nitroso derivati dei composti organici non esistono, ma esistono le ossime corrispondenti. Quindi questo signore immediatamente si trasforma in C doppio legame NOH COOR COOR. Quindi se voi fate questa reazione non sul malonato scusso ma sul malonato fatto così, cioè con in posizione 2 già un gruppo alchilico, andate a ottenere in modo facile, senza bisogno di altre problematiche, il malonato, 2 alchilato, 2 nitrosato. Quando fate le 3 operazioni necessarie per eliminare la CO2, che prevede la sintesi malonica, cioè trattamento con OH-, secondo, trattamento con H+, per ripristinare l'acido, terzo, riscaldamento, quello che voi ottenete qui è COOH CRNOH. E questa cosa qui, come l'NO vede che attaccato all'atomo di carbonio su cui è attaccato l'azoto c'è un idrogeno, se ne impossessa di questo idrogeno e lui si trasforma, scriviamolo sopra, in COR CR NOH. Guarda come l'ho presa alla lontana. Ma qui noi abbiamo la possibilità di fare una cosa meravigliosa. Un amminoacido otticamente attivo. Perché? Perché il ciclo più legame azoto è un centro prochirale. Quindi se io uso un reagente riducente che potrebbe essere il, il palladio idruro legato ad una fosfina otticamente attiva, e magari la fosfina otticamente attiva me la dà la resina che io mi sono preparato prima, cosa facile da farsi, sono commerciali le fosfine otticamente attive attaccate alle resine, io mi aspetto un'induzione asimmetrica. Un'induzione asimmetrica su questo sistema prochirale che mi porta senza ombra di dubbio a un composto che avrà una sua attività ottica NH2HR. Sono riuscito a farmi, quindi capite bene che attraverso il processo di nitrosazione la reazione malonica, la resina solfonica, la resina che tiene, che, come si dice, opportunamente modificata per avere dei gruppi fosfinici otticamente attivi sopra, prodotti che sono anche commerciali, riesco a ottenere un composto otticamente attivo. E ho fatto tutta questa serie di passaggi a livello di green chemistry. Per dire, ma torniamo alla nostra ammina. Questo esempio ve lo dico solo perché voi potreste essere portati a pensare che la nitrosazione sia una reazione esotica, invece le nitrosazioni hanno un grosso significato. I nitroso derivati aromatici vengono utilizzati per fare un sacco di cose, quindi bisogna sapere come si fanno i nitroso derivati aromatici. Ecco. Alla qualcosa vi rimando all'organica 2, non so se vi rimando all'organica 2 o non vi rimando a niente, ma insomma diciamo che di solito queste cose si potevano fare all'organica 2. Oh, questo composto qui, la nitrosazione di un'ammina ha una sua funzione fondamentale, perché nitrosare un'ammina vuol dire rendere questi idrogeni acidi. Questi idrogeni sono acidi per un motivo sostanziale. Cioè, sui libri non c'è spiegata bene questa cosa. Allora te lo dico io perché funziona così. Perché io posso scrivere una roba fatta così. È una formula limite di risonanza dell'N nitroso derivato. Scriviamolo. N R doppio legame più N O meno. Questo o meno si prende questo idrogeno qui e lascia la carica negativa qua sopra, formando CH2- N più doppio legame N OHR. Ecco perché questi idrogeni sono idrogeni acidi, non tanto perché questo gruppo attiri gli elettroni, perché non si vede come attira gli elettroni, ma questo gruppo attira gli elettroni nell'istante in cui la sua formula limite di risonanza è diventata questa. Ma quando è diventata questa, questa carica negativa sull'ossigeno stacca questo idrogeno, che è acido perché qui c'è diventato veramente una carica positiva vicino. Allora sì che è acido, se no non si capisce. Beh, ma a questo punto voi ci schiappate dentro un alugenuro alchilico e voi ottenete una cosa abbastanza interessante come reattività, come reazione, e avete fatto RCH2R N più R, dove legame N OH. A questo punto riducete con sodio cloridruro, per esempio, e tornate all'almina, cioè CH2RNHR. Cosa avete fatto? Avete messo un gruppo R in alfa azoto. Non è male per la costruzione di un'almina, che può essere anche complicata. Vi ricordo che la sintesi delle ammide non è la alchilazione esauriente di Hoffman, come c'è scritto su Morrison Boyd. Sì, poverino, Hoffman è stato il primo che ha studiato queste cose, va benissimo, ma nell'alchilazione esauriente di Hoffman, per fare un'ammina, dopo ti trovi in tutta una serie di equilibri, l'ammina primaria, la secondaria, la terziaria, il sale d'ammonio che devi separare insieme, diventa un casino. Quindi qui direi che questo tipo di approccio è sicuramente migliore. Se uno volesse avere più informazioni su questa reazione, può andare per esempio su Lubenweil, dove c'è questa reazione. Magari sapete cos'è Lubenweil? No. Benissimo. Lubenweil è una specie di serie di monografie di libri, purtroppo in tedesco, dove però è facile trovare ampia letteratura. È un po' come un abstract tedesco, però ci avrà 30-40 volumi, non c'ha 6.000 volumi come l'abstract, ed è facile trovare le cose che ti servono, perché sulla costola dei libri te lo guardi, c'è i gruppi funzionali che vengono trattati dentro. Quindi c'è un libro che parla degli N-nitroso derivati, e te vai lì, lo sfogli pagina per pagina, e fino a che non trovi, perché il tedesco non lo so, quindi dovevo sfogliarlo pagina per pagina, la reazione che ti serve. Con le figurine, torienti con le figurine, e poi vai a vedere la bibliografia, che di solito è una bibliografia in inglese, e quindi te la riesci. Beh, se voi sapete il tedesco non c'è problemi, ma io purtroppo non lo sapevo, non lo so tuttora, e quindi ero nel casino, guardavo le figurine. Mi sembra che ora come ora sia il testo migliore che abbordabile in bibliografia, in biblioteca, qui da noi, per poter saperne di più. Almeno un centinaio di pagine su questa banale reazione ci sono, e quindi ne apprezzate, insomma, il nome. Ubenweil. Ubenweil. La copertina è celestina chiara, ciano chiaro, copertina di carta. Sotto il libro invece è legato, è scuro, verde scuro, con le costole in rosso dove sono scritte le... lo vedete immediatamente. Una volta che lo avete localizzato, per fare letteratura è importante, cioè sono quelle monografie che servono per fare tutte le letterature sui gruppi funzionali prima di mettere le mani nel chemical abstract, che diventa un casino allucinante. Sì. Un attimo, prima che mi dimentico, quando abbiamo parlato della celite e dell'argento, sì. Come facciamo ad ottenere l'ossido di argento? Devo scaldare? No, assolutamente. L'argento si deposita da solo a temperatura ambiente, si usa il nitrato d'argento, perché il nitrato d'argento è solubile nell'acqua. Quindi celite sospesa nell'acqua, nitrato d'argento e idrossido di sodio dentro. Plip. Quello che succede è che si precipita l'ossido di argento sotto forte agitazione, ma precipita microgranulamente parlando, un po' qui, un po' lì, quindi grande superficie di distribuzione, alta efficacia di ossidazione. Poi, ovviamente, lavi tutto con acqua, l'ossido d'argento ovviamente non si scioglie da nessuna parte, tutti gli altri sali li porti via, la celite la utilizzi fresca, perché voi sapete che l'ossido d'argento è meglio non conservarlo, prima perché si degrada, e poi perché può dare origine ad composti e a reazioni radicali che a volte esplosive. Quindi è bene usarlo in modo fresco, ecco, insomma, infatti non si vende, si prepara questo reagente che... L'amberlist è una cosa con la quale ci si fanno un sacco di cose. L'amberlist è una resina solfonica. Una resina solfonica che ha una struttura del genere, sostanzialmente. Oserei dire, il Nafion e l'amberlist sono resine simili. Il Nafion ha più gruppi fortemente acidi, sostanzialmente, che non l'amberlist. Ma anche l'amberlist è come usare l'acido solforico, quindi te c'hai una matrice polimerica, ogni tanto viene fuori un benzene e a questo benzene ci è attaccato l'SO3H. Quindi è come usare l'acido paratoluene solforico, ma tecnicamente ce l'hai su matrice polimerica. Capisci che qualsiasi cosa accada a questo reagente, cioè se lo usi in una reazione come catalizzatore acido, rimarrà in qualità catalitica e quindi non succederà nulla, ma se lo usi come una resina scambiatrice di ioni, l'SO3H potrà diventare SO3NA, ma tu lo ripristinerai buttando dentro l'opportuno acido solforico e quindi ripristinare i siti acidi. Sostanzialmente credo che si usi l'acido cloridrico, perché l'acido cloridrico poi, mentre è più difficile portare via il solfato di sodio, è più facile portare via l'acido cloridrico e il cloro di sodio, perché sono solubili nell'acqua. Se il solfato di sodio ti rimane incastrato nella resina, ti rompe le scatole. È come usare l'acido paratoluene solforico, oppure usare l'acido solforico. Allora, una delle cose che noi potremmo progettare di fare è la nitrazione di un anello aromatico. La nitrazione di un anello aromatico. Facciamo, per esempio, prendiamo metossibenzene. Allora, se io faccio la nitrazione di questo composto con la solita miscela acido nitrico e acido solforico, ho una miscela tremenda di orto e para. 2-1, di questi qui, sostanzialmente. Come la faccio? La faccio, non riesco a ottenere uno dei due prodotti, non riesco a lavorare sull'ingombro sterico della posizione orto rispetto alla para, non riesco a lavorare sulla concentrazione dell'acido nitrico rispetto all'acido solforico, non ce la faccio. Se io faccio, preparo la mia resina solfonica, sulla quale ho diciamo percolato dell'acido nitrico in opportune quantità che sono calcolate in letteratura, io ho una resina solfonica, quindi un amberlist, imbevuta di acido nitrico. Ebbene, quando io faccio la nitrazione di questo composto, io ottengo il 99% di prodotto para. L'acido nitrico al 98% si deve usare. Poi vi dico perché. Che cosa è successo? È successo che la resina così fatta, è vero che è acido solforico, ma è un acido solforico di un ingombro sterico allucinante. E quindi sono riuscito a lavorare sull'unico parametro che mi avrebbe potuto dare dei risultati. Ho aumentato in modo eccezionale l'ingombro sterico della miscela che sta per aggredire, di elettrofilo che sta per aggredire il benzene. 98%, e questo fa risparmiare all'industria tutti quei soldi necessari per separare gli isomeri. Che, ora io l'ho fatto su un composto semplice, tenete presente che quindi quando volete fare una reazione di nitrazione selettiva che tenga presente l'ingombro sterico, questa è l'unica via. Pensate che questo è un articolo del Journal Organic Chemistry piccolino, che come gli articoli più piccoli sono quelli che hanno più successo, degli anni 65, 66, 67. L'acido nitrico al 98%, il motivo è semplice. Non so se voi avete mai usato una bottiglia di acido nitrico. Quando ci avete due o tre bottiglie di acido nitrico lì, aprite quella al 48%, aprite quella al 50%, aprite quella al 60%, aprite quella al 98%, vi rendete subito conto della differenza. L'acido nitrico al 98% è una bomba. Cioè, è qualche cosa che se ti scoppia quella bottiglia in mano non ti trova più nessuno. Perché ci vuole l'acido nitrico al 98%? Ci vuole perché la reazione di nitrazione sull'anello aromatico parte benissimo. Perché vi ricordo che lo ione nitronio è più soft dell'SO3. Ed essendo più soft dell'SO3 è quello che si aggancia più facilmente al benzene, che è la cosa più soft che ci sia. Tutti atomi, tutti legami doppi carbonio-carbonio estremamente covalenti. Quindi la nitrazione è molto più veloce della solfonazione. Non c'è nessuna traccia di solfonazione, mai. Però c'è un problema. Mano a mano che la reazione va avanti, se voi ci fate caso, sui libri non c'è mai ben detto, ben scritto, si sviluppa acqua. L'acqua diluisce l'acido nitrico che perde efficacia. E in più ci metto l'acido solforico apposta, ora ho capito perché non ci metto l'acido qualcos'altro. Ci deve essere un acido che è più forte dell'acido nitrico. Punto numero uno, ma ci deve essere anche un acido come l'acido solforico che è un forte disidratante, perché lui ti piglia l'acqua, perché sennò l'acido nitrico si diluisce nel tempo. Quindi la nitrazione parte come una scheggia, parte bene e poi si ferma a metà, e l'ultimo 20-30% della nitrazione non ti viene. Quindi devi partire sempre da un acido nitrico estremamente forte da un punto di vista di concentrazione, sennò sei fregato. Un signore che ha studiato l'efficacia delle resine solfoniche è un signore che si chiama Olach, tedesco. Olach, con l'H finale. Ci sono delle review anche qui sui suoi studi. Olach usa resine acide solfoniche a volte ancora più forti dell'Amberlist, come il Nafion H. Perché Nafion H? Perché esiste anche un Nafion OH, come un Amberlist OH. Di solito l'Amberlist che viene utilizzata, che è la più comune, è la cosiddetta Amberlist 15, dove queste sigle sono semplicemente fornitrici di una indicazione del numero di unità di H più per milligrammo di resina. Esiste anche quindi la resina solfonica acida e la resina corrispondente basica, che quindi non ha un gruppo solfonico ma ha un forte gruppo basico, uno meno. Sostanzialmente sono dei fenati, Quindi se voi avete bisogno di una resina acida, usate il Nafion H, se voi avete bisogno di una resina basica, usate la corrispondente resina basica. Quindi tenete presente questo fatto. Queste resine vengono utilizzate non solo come veri e propri reagenti, ma anche come catalizzatori. Lo vediamo fra un attimo. Quando vengono usati come reagenti, come per esempio Ola, Ola fa così, prende questo glicole etilenico, lo mette in un Claisen in presenza di Nafion H e scalda a morte e distilla. Dall'altra parte gli viene fuori l'80% di questo composto più acqua. Con questa reazione è possibile preparare una serie di eteri ciclici e non, a secondo le condizioni di reazione e il prodotto di partenza, di alto valore aggiunto. Quello che succede è che chiaramente si forza la reazione a estrarre acqua, che viene tolta dall'ambiente di reazione attraverso la distillazione. L'H+ rimane di qua, dall'altra parte del Claisen l'H+ non c'è, quindi non si può tornare indietro, anche se c'è l'acqua. Si possono fare diverse applicazioni, ovviamente, di questo tipo. Un'altra reazione che possiamo fare è questa. Un composto carbonilico, glicoletilenico, Amberlist 15, cioè H+, sostanzialmente, meno H2O, scaldo, questo, ovviamente più H2O. C'è l'acqua. L'acqua mi dà fastidio. Cosa gli faccio? SiO2. Non è male, eh? Beh, l'abbiamo imparato. E il solvente non ce lo metto, perché non serve. Allora, attenzione, siccome qui non ci ho messo il solvente, e sostanzialmente questi composti possono essere solidi, vabbè, il glicoletilenico no, ma il chetone potrebbe essere solido, posso fare, posso cercare di utilizzare il glicoletilenico che mi serva anche un po' da semisolvente di questo, se ce la faccio, oppure ci aggiungo una cosa, microwaves, microonde, cioè il raggio con microonde, il bulk di reazione. Faccio la reazione in un solito palloncino dentro un bagno a microonde. Il bagno a microonde ha semplicemente in questo contesto il compito di dare energia all'ambiente, fare in modo che il numero di urti efficaci diventi un numero di urti ragionevole perché la reazione possa avvenire in questa reazione qui avviene in circa 5 minuti. Però la cosa interessante è che abbiamo aggiunto un nuovo reagente, cioè le microwaves, le microonde. Esiste tutto un capitolo di chimica che si chiama sound chemistry, che non è la chimica da discoteca, ma è la chimica che si fa utilizzando gli ultrasuoni o le microwaves, che sono sistemi che servono proprio quando il solvente non c'è e allora gli devi dare una scossa alla reazione. Quindi teniamo conto di questo parametro perché poi cercheremo di razionalizzarlo in qualche modo. Sì. Possiamo fare sostanzialmente tutta quella serie di reazioni che potrebbe essere che potrebbe andare sotto il nome di sostituzioni nucleofile. Noi abbiamo un banale alogenuro alchilico RX, ci voglio un'ammina, ci aggiungo NaN3 è solido, l'alogenuro alchilico è solido. quello che viene fuori, che io desidero che venga fuori, è R, N3 ed RA X. È tutto solido. E allora, microwaves. Neanche il solvente. Perché ci devo mettere il solvente? Vediamo se la reazione avviene da sola. La reazione avviene da sola. In questo contesto, vedete che io ho sostanzialmente fatto qualcosa che avveniva su matrice solida, senza solvente, con delle rese insospettabilmente alte a volte. È evidente che dietro queste reazioni c'è una chimica nuova di cui non abbiamo ancora neanche la più pallida idea di dove ci porterà, perché noi siamo abituati a studiare le reazioni di sostituzione elettrofile, nucleofile, con i meccanismi in fase omogenea. Invece, la fase solida ha una sua importanza nell'industria che sta venendo fuori solamente ora. Un esempio è che non tutti i solidi sono uguali. Voi andate a comprare una medicina in farmacia e prendete un farmaco che costa X perché ha un nome importante, però potreste prendere anche il principio attivo che costa Y e che sostanzialmente è lo stesso farmaco, però costa meno. Vi posso assicurare che i due farmaci non funzionano nello stesso modo. Non so chi dei due funzionerà meglio. Non è detto che funzioni quello che costa di più, ma il problema è sostanzialmente sovente nella cristallizzazione. Quando te alla fine della reazione cristallizzi questo prodotto, se è un solido, a seconda di come l'hai cristallizzato, il cristallo ha una forma diversa. Il cristallo che ha una forma diversa, ti posso assicurare, funziona in un modo totalmente diverso, con delle differenze che vanno dal 20 all'80%, la stessa quantità, la stessa cosa. Vabbè, è come la differenza tra il carbonio, il carbone e il diamante, o i nanotubi, insomma, voglio dire, cioè, cose completamente diverse. Quindi tenete presente questa cosa, perché nell'industria è importante, si prendono sovente delle cantonate, perché te hai ottenuto un prodotto che poi alla fine non ti funziona per quello che ti deve funzionare, e te non sai perché. Nelle reazioni di laboratorio questa cosa in realtà viene fuori, che ne so, vuoi usare del magnesio cloruro perché ti serve un acido di Lewis. Il magnesio cloruro in tetraidrofurano non si scioglie, ma neanche a cannonate, a meno che tu non lo fai formare in tetraidrofurano. Allora sì che il tetraidrofurano lo solvata. Perché? Perché il magnesio cloruro sostanzialmente è un polimero di se stesso. Quindi il tetraidrofurano non riesce a solvatarlo rompendo le diverse molecole di MgX2. Se te lo fai in tetraidrofurano, per esempio dall'1-2 di cloro etano con magnesio, reattivo di Grignard, te ottieni l'MgX2 solubile, perché l'MgX2 si è complessato a due molecole di tetraidrofurano e il complessato non ha nessuna voglia di agganciarsi ad altre molecole di MgX2. E quello lo puoi usare. I due magnesi fatti, alogenuri di magnesio, fatti in due modi diversi, hanno una reattività completamente diversa, non sono neanche parenti. Neanche parenti alla lontana. Queste reazioni che vedete possono servire per preparare anche quelle che saranno le resine che ti serviranno. Perché, per esempio, se questo alogenuro in realtà è una roba fatta così, cioè una matrice polimerica in cui ci sono dei buoni gruppi uscenti e te ci metti sopra della sodio azide, perché te alla fine che cosa vuoi ottenere? Vuoi ottenere una matrice fatta così, con tanti NH2. Allora devi preparare, devi fare queste reazioni su matrice polimerica il solvente serve solamente per trascinare in qualche modo i vari componenti nel tentativo di che si contattino tra di loro, con l'NaN3, quindi l'alogenuro supportato sul polimero, o meglio, il polimero funzionalizzato come alogenuro reagisce con l'NaN3 e diventa un polimero funzionalizzato come azide. Il polimero funzionalizzato come azide, cioè N3, lo tratti col sodio boriduro e vedrai che ottieni un polimero funzionalizzato come ammina. E ti sei fatta il tuo reagente che ti può servire per fare quelle che sono le reazioni. Quindi, sostanzialmente qui i solventi hanno solo la funzione di cercare di fare in modo che meccanicamente i vari reagenti interagiscano tra di loro. In questo contesto, quando le cose sono lente, microwaves, e le cose migliorano. Il boom delle reazioni supportate su matrice polimerica si ottenne negli anni 60 sostanzialmente quando Merrifield ci fece le catene di aminoacidi, le resine Merrifield, che prendono il nome Merrifield, poverino, ci ha preso il premio Nobel per questa sciocchezza. Quindi forse vale la pena di vedere un attimino di cosa si tratta. Tenete presente questo: quando io voglio fare una catena di un polipeptide e voglio mettere degli aminoacidi uno attaccato all'altro, per esempio, per fare una catena di dai 20 ai 22 aminoacidi ci vogliono circa 6 mesi di tempo, sintesi classica, 6 mesi di tempo, con una resa finale, se ti va bene, del 20%, se ti va bene, del 20%, se hai lavorato bene. Questo perché? Perché quando normalmente noi facciamo reagire due aminoacidi insieme, abbiamo due gruppi funzionali, che sono due ammine e due acidi. E se non usiamo qualche trucco, che potrebbe essere quindi gruppi protettivi, sia delle ammine che della parte acida, o gruppi attivanti, non otteniamo miscele di prodotti. Noi dobbiamo sempre far reagire i due aminoacidi che abbiano due parti bloccate, così che possono reagire solo una parte amminica con solo una parte acida. Quindi delle protezioni, per esempio, con il BOC. Allora, io ho una resina fatta così, in cui qui ho un gruppo acido. Qua ho un'ammina e ci ho qualche cosa. Quello che succede è che ovviamente l'unica cosa che può succedere è questa, e fin qui problemi non ce n'ho, tiro via l'acqua e ottengo NHCOO qualche cosa. Questo qualche cosa sostanzialmente potrebbe essere, visto che l'abbiamo studiato, e ora ci torna anche comodo vedere come questi dialchilcarbonati funzionano. Perché quando io faccio reagire questo composto con un altro aminoacido, NH2COO qualche cosa, A, questo è soft. E ora so esattamente che siccome è soft reagirà qui e mi butterà fuori la CO2 e mi butterà fuori questo. Solo il gruppo amminico dell'aminoacido, dell'aminoestere che entra, ha reagito con il gruppo attivante della funzione carbossilica della parte aminoacidica legata al polimero. Quando faccio questa reazione più volte, è chiaro che io riesco a ottenere una sequenza che è precisa, solo quella che voglio io. Per fare questa reazione, quindi per fare con questo sistema una catena di 22 aminoacidi, ci vogliono dai 2 ai 5 giorni con una resa finale del 75%. Si fa con una macchinetta. C'è una macchinetta che è una specie di bulk di reazione con tutta una serie di sportellini. Come sembra da lontano, sembra un gas cromatografo. Ci sono dei tasti di programmazione su cui ci sono le lettere degli amminoacidi protetti o attivati che te devi fare entrare in sequenza. Batti i tasti, vai a prendere un caffè, dopo due giorni torni e c'hai la tua sequenza di polimero fatta. Poverino, a Merrifield gli hanno dato il Nobel. Questa era una il massimo, se vogliamo, esempio di chimica che fa uso di resine che supportano praticamente la catena che cresce di amminoacido, e alla fine c'è la reazione finale che stacca l'amminoacido dalla resina e te lo consegna. La resina viene riutilizzata, ovviamente, e non si butta via niente. Non è proprio male. Come si fanno le reazioni di bloccaggio dei gruppi protettivi? Si fanno anche le reazioni di sbloccaggio dei gruppi protettivi. Questi possono essere fatte in diverso modo e possono servire a diverse cose. E vi ricordo questa, che mi sembra una delle più importanti. Per esempio, acetone protetto così. Il 2 primo di metossipropano, sostanzialmente. Questa, con senza solvente, microwaves e basta, lui è già un acido, fa già la catalisi acida, non c'è nessun problema. Quello che succede è che alla fine si forma l'estere metilico, si forma l'acetone, che puoi portare via in un milione di modi diversi, anche semplicemente a rota vapor. Se vuoi ci puoi mettere, se questo acido potesse non garantire un'acidità sufficiente, un po' di Amberlist 15H, che ti aumenta l'acidità, catalyticamente ti porta avanti la reazione, e quello che viene fuori, bisogna che ci sia dell'acqua qui. Non è necessario, ma se è necessario, SiO2. Quindi te fai una reazione in modo completamente diverso. Non ci hai aggiunto nessun solvente, l'acetone che viene fuori lo porti via facilmente, l'acqua che viene fuori la blocchi con SiO2, se la reazione non è veloce ci aggiungi le microwaves, hai fatto qualcosa di completamente diverso da una classica reazione in tetraidrofurano con l'agitatore, il pallone a tre colli, il butogocciolatore e tutte quelle cose incredibili che di solito si usano. Sul carbone ci possiamo mettere anche un metallo come il potassio, la potassio grafite. Come si fa? Che poi è potassio su carbone. La potassio grafite, cioè potassio su carbone, sostanzialmente si fa in questo modo: si prende della grafite e in un pallone a tre colli con una forte agitazione e sotto azoto, ovviamente, ci si mettono dei pezzi di potassio, catrozzoli di potassio, come si dice in Toscana, catrozzoli di potassio. Cerca di tagliarli il più piccoli possibili. Quando uno lavora col potassio non è come lavorare col sodio o con il litio. Il potassio ti prende fuoco in mano. Quindi bisogna essere un pochino più veloci nel fare questa reazione e non essere impressionati, cioè non è quel patema che ti fa sudare le mani, perché se no è la fine, e va bene, sì. Ci sono delle tecniche, chiaramente, che un giorno imparerete, se non l'avete mai fatto, lo imparerete in laboratorio, come tagliarlo, come metterlo sotto etere etilico mentre lo stai lavorando, eccetera, eccetera. E a un certo punto, tappato tutto il pallone, ci hai messo questo potassio, scaldi. Scaldi e dai via l'agitazione. Il potassio fonde rapidamente e queste micro bollettine di potassio si spandono su tutta la superficie della grafite. Quando questa cosa è accaduta, che la grafite diventa bronzea come colore, togli il calore, il potassio si raffredda, si blocca sulla grafite e te c'è una grandissima superficie di potassio che ha quegli idrogeni acidi che non riuscivano ad essere staccati perché sono poco acidi. Il potassio su grafite te li piglia uno per uno. E questo è un reagente supportato. Da questo punto di vista, se noi possiamo considerarlo un reagente supportato e quindi noi non stiamo facendo uso di solventi, dobbiamo tenere presente in questo contesto però che il potassio su grafite da un punto di vista di green chemistry non è proprio green, ma non perché perché potrebbe essere pericoloso, cioè da un punto di vista di laboratorio te lo puoi usare, ma nell'industria la preparazione di queste cose diventa estremamente complicata, quindi sì, utilizzano anche grandi quantità, non c'è problema, ma in laboratorio, io sull'impianto lo vedo male, questo tipo di ipotesi di lavoro. Sostanzialmente, quindi noi abbiamo due possibilità per fare questi tipi di reazioni, che possiamo anche scrivere. Vediamo se con un banale schema semplice. Noi abbiamo due possibilità. Il reagente A lo facciamo reagire con il reagente B con un solvente. Sono solidi, tutti e due. Il solvente serve solo per trasportare le cose. Oppure il solvente A lo facciamo reagire con il solvente B, il composto B, il solvente non ce lo mettiamo, ma ci mettiamo le microwaves. Quindi in qualche modo le microonde fanno quello che dovrebbe fare il solvente, cioè fare in modo che i reagenti si mescolino insieme e possano aumentare il numero di urti efficaci che serve per mandare avanti la reazione. Da questo punto di vista, come vi dicevo all'inizio, tutte le volte che noi non usiamo i solventi o ne usiamo quantità ridottissime, stiamo dando una mano all'ambiente perché l'85% dell'inquinamento è legato al solvente. Per cui se io voglio fare una reazione di ossidazione o una reazione di riduzione, per esempio, io ho benzene, insomma, un composto aromatico, legato a un atomo di carbonio che è legato a un doppio legame che è legato a, così, a un alchene, cioè una struttura tipo stirenica, e voglio in qualche modo rompere questo doppio legame per ossidazione, posso per esempio lavorare col permanganato Kn₄ supportato su Al₂O₃ senza solvente. Microonde. Quello che accade è che si formerà qualcosa, ma alla fine questo qualcosa, quando lo idrolizzerò, e lo devo idrolizzare perché l'acqua non ce l'ho messa, quindi alla fine ci metto l'acqua, quindi 1, tutto questo, 2H2O, otterrò le due aldeidi corrispondenti. Quindi pensate, ho usato il permanganato e sono riuscito a fermarmi ad aldeide. Non essendoci l'acqua, sostanzialmente, quello che è il pH del permanganato conta molto poco qui. Perché con il permanganato, mano a mano che le reazioni variano, a seconda delle reazioni che ci sono in giro, il pH cambia. Quindi in questo contesto non si può parlare di pH perché l'acqua non c'è, quindi io sono un po', soprattutto sono bloccato da quello che è il reagente intermedio di reazione, che è questo, il cosiddetto manganolo. MnOO questo qui rimane qui, non fa nient'altro, non rompe le scatole a nessuno, nell'istante in cui lo butto nell'acqua, questi sono alcolati di manganese, si idrolizzano e mi danno origine a sali che l'acqua mi porterà via, che sono i sali del manganese. E i miei prodotti di reazione organica, che sono quelli che io voglio. Posso fare quindi delle ossidazioni. Non solo posso fare delle ossidazioni in questo modo, ma posso fare delle ossidazioni perché il mio reagente ossidante è bloccato sulla matrice polimerica. Per esempio, sulla matrice polimerica, no? Di legare il cromo alla piridina. Quindi avrò un polimero fatto così, che qui complessa CrO3. E io mi sono fatto un reagente di Fetti, un reagente di Jones, sostanzialmente bloccato, ma non uso la piridina e quindi non ho bisogno di scaricarla come di solito si fa, in qualche modo di recuperarla, di respirarla. Questa è una piridina che non si respira, perché è una piridina solida sostanzialmente, e questo reagente va benissimo. I sali di cromo saranno quelli che rimarranno in acqua, ma la piridina io non la tolgo da qui. Quindi poi dovrò ripristinare la mia resina che io ho ottenuto dalla polimerizzazione della 4-vinilpiridina, sostanzialmente, come lo stirene, né più né meno, e la ripristinerò ributtandoci dentro l'ossido di cromo, o facendolo formare in situ con opportuna ossido riduzione. Di tutto di più. I vantaggi qui sono da un punto di vista green sono abbastanza evidenti. Così come c'è il cromo, ci potrà essere il manganese, l'MnO2, che sostanzialmente si potrebbe comportare nello stesso modo. Ci sono una vasta gamma di questi prodotti, il principio fondamentale è questo. Una reazione di riduzione. Se io ho un chetone, ora io scrivo il metilfenil chetone, ma anche qualcosa di più complicato, e lo voglio su Al2O3 che supporta NaBH4 e il sodio boriduro, microwaves, non ci metto niente dentro, alla fine ecco che io ottengo il mio prodotto CHOHR. Reazioni che durano sostanzialmente pochissimo tempo, 10-15 minuti, senza l'uso di solventi. Poi, chiaramente, quello che devi fare è staccare il tuo prodotto dalla L2O3 e quindi ci vuole per forza un solvente acquoso per togliere i sali, ovviamente, e poi organico per tirare fuori questa roba qui. Però sono solventi che te userai solo in quantità minima, solo per estrarre i prodotti di reazione. Sostanzialmente possiamo fare delle reazioni di trasposizione, per esempio. Delle reazioni di trasposizione. Le reazioni di trasposizione sono quelle reazioni che la Green Chemistry ama particolarmente. Allora, per esempio, prendiamo un composto fatto così, O metile, CH2, CH, doppio legame CH2. Ossido di calcio, CaO. Sostanzialmente siamo ancora in fase solida. Ci possiamo mettere microwaves, oppure possiamo usare una resina basica, tipo così, un'ammina, una poliammina. Quello che succede è che alla fine di questa quello che succede è che viene estratto questo protone. E quindi una volta che viene estratto questo protone, perché questo protone ha delle caratteristiche acide, quindi in un istante si trasforma in questo. E questo è in equilibrio con questo. Quindi alla fine della reazione noi abbiamo CH2-, che se noi abbiamo usato, per esempio, si capisce perfettamente questa resina, l'H+ che si è attaccato qua si ristacca e si riattacca qui, perché il sale d'ammonio agganciato alla resina rimolla l'H+, nel giro di pochi minuti te hai la trasposizione di questo doppio legame. Siccome queste sono reazioni sostanzialmente di equilibrio, quello che funziona è la stabilità del prodotto finale. Sei partita da un alchene esterno, arrivi ad un alchene interno, quindi termodinamicamente più stabile, quindi ti tocca, anzi, il doppio legame è anche coniugato con anidride aromatico. Notare che se voi volete fare questa stessa reazione in un altro modo, sia in catalisi acida che in catalisi basica, vi polimerizza quella specie di sistema stirenico che voi ci avete a razzo, sia in catalisi acida che in catalisi basica. Quindi siete fregati. Con questo sistema non c'è nessuna polimerizzazione, le condizioni sono più blande, la reazione è più veloce e sostanzialmente non è successo niente. Non si scalda. Tutte le volte che noi non usiamo un solvente, tutte le volte che noi non usiamo l'acqua, tutti quelli che sono processi con l'acqua di idrolisi non avvengono. Quindi riusciamo ad ottenere dei risultati che nelle condizioni normali di reazione non potremmo ottenere, perché la reazione va avanti proprio per la presenza di acqua o per la presenza di solvente, che mentre di solito il solvente facilita la reazione perché aumenta il numero di urti efficaci, qui è proprio quello che non vogliamo e quindi otteniamo diciamo dei buoni risultati. Quando noi abbiamo queste reazioni, pensiamo per un attimo, anche se non siamo portati a farlo, che si possano fare queste reazioni senza solvente, oppure su matrici polimeriche, oppure con pochissima quantità di acqua e così via. Sapete, l'acqua è una cosa strana. Perché? Tutti vogliono utilizzare l'acqua come solvente organico perché sarebbe meraviglioso. E quindi tutti gli sforzi dei chimici portano in quella direzione. E questo conduce il chimico a fare delle cose che altrimenti non potrebbe neanche immaginarsi. Soprattutto a far lavorare la propria fantasia. Abbiamo visto, per esempio, che con il trasferimento di fase liquido-liquido si usa tanta acqua e poco solvente organico. E quindi già c'è una cosa meravigliosa. In alcuni casi si deve fare il contrario. In alcuni casi si deve usare poca acqua e tanto solvente organico, perché l'acqua ti rompe le palle. Facciamo un esempio. Magari è una reazione che i chimici organici conoscono, il mannitolo, CH2OH, OH, dunque CH2OH, OH, OH, scriviamolo così. Quando io voglio fare la digliceraldeide, la sintesi della digliceraldeide, si prende l'acetone, due molecole di acetone, il mannitolo in acqua, un acido che di solito è lo zinco cloruro, l'acido di Lewis, perché l'H+ ti spacca tutta la molecola, e quello che si ottiene è CH2, CH2, O, O, metile, metile, questo non mi ricordo a che parte stanno questi OH, però fate conto, in realtà questo sta da questa parte, questo sta da quest'altra parte, e qui in realtà sarebbe così, metile, metile, CH2 e CH. A questo punto io devo rompere con un opportuno reagente la molecola in due, perché da questa parte io voglio ottenere due molecole identiche, chiralità, di questa aldeide, che altro non è che è la digliceraldeide, perché sono partito dal dimanitolo. Quindi è una sintesi che i chimici chiamano convergente, perché di due pezzi in realtà ne ottengo uno solo, perché sono i due pezzi la stessa cosa. Quindi una reazione a livello industriale meravigliosa si fa in acqua. Solvente, acqua. Questa reazione qui, quella dopo, si può fare in un sacco di modi. Devi rompere il diolo e farlo diventare aldeide. Allora questa cosa si fa o con l'NaIO4 o col piombo, per esempio tetracetato, o COCH3 quattro volte. Questo darà origine, quindi, periodato di sodio, reazione di un certo signore che si chiama Malaprade, scritto così. Pensate che con la chimica degli zuccheri è importante, perché i due OH reagiscono solamente se sono dalla stessa parte, perché si deve formare un intermedio ciclico, come al solito intermedio ciclico che è sempre fatto così, con lo iodio nel mezzo, ossigeno, ossigeno. Chiaramente i due OH devono avere la stessa stereochimica dalla stessa parte, perché sennò la cosa non accade. Quindi è una reazione che serve solo per quei dioli che hanno questo problema stereochimico, quindi gli altri non vengono utilizzati. Il periodato di sodio si trasforma in iodato di sodio, il piombo tetracetato si trasforma in piombo di acetato. In questo caso però si forma dell'acido iodico, e in questo caso si forma come sottoprodotto dell'acido acetico. La reazione si fa in acqua, è la fine. Te la fai e la sfai, perché questo, che è un gruppo protettivo del chetone, in acido acetico concentrato, perché si forma acido acetico e se ne forma tanto, o in acido iodico, che è un acido forte, lo rompi. E quindi tu ottieni un prodotto, che è sì il prodotto che tu vuoi, OH, CH2, scriviamo CH, OH, CHO, il quale però non lo togli più dall'acqua, non c'è niente da fare, non lo togli più dall'acqua. Allora bisogna inventarsi un trucco. Ecco perché c'è un rapporto di amore e odio con l'acqua dei chimici organici, perché il trucco è questo. Questa reazione la fai al 90, se la fai come c'è scritto in letteratura, così, non ti viene, la puoi fare 20 volte. Questo ultimo passaggio, tu arrivi fino a qui. Ora prendi questo prodotto, lo sciogli in cloruro di metilene, CH2Cl2. Ci metti, se vuoi, il periodato di sodio e ci metti una goccia di acqua. Una goccia, una. La reazione avviene all'interno di quella goccia di acqua. È un trasferimento di fase al contrario. È un trucco. All'interno di quella goccia di acqua, ma una vera e propria goccia di acqua, plip, così, nel giro di un quarto d'ora si sono formati tutti i sali, che ovviamente organici nel cloro di metilene precipitano, filtri, e nel cloro di metilene ti rimane questo prodotto qui, bello, calmo, tranquillo, che ovviamente quella poca goccia di acqua che c'è è quella che serve per darti questi OH qui, e basta. Per idrolizzare, non c'è altro alla fine. Man mano che aggiungi l'acqua, una, due, tre gocce, dipende dalla quantità ovviamente, te la calcoli, ci metti la quantità di acqua che ti serve qui e otterrai questo prodotto, che ovviamente non subirà problematiche, e te riesci a toglierlo dall'ambiente di reazione perché è un ambiente del cloro di metilene. Quindi quantità quasi catalitiche di acqua in questo contesto. Ci sono degli altri contesti, quindi vedi il rapporto di amore e odio che c'è col solvente, con l'acqua. Pensateci a questa cosa, perché molte delle reazioni che prevedono l'utilizzo dell'acqua, ma l'acqua poi distrugge i prodotti finali mettendoci acqua catalitica. Su questi composti qui, per esempio, quando voi avete, che sono i derivati di oli, dell'aldeide glicerica, voi partite dall'acido lattico, CHOH, CH3, che magari è anche otticamente attivo, e lo volete ridurre, sodio boriduro, litialuminiduro, ma insomma sodio boriduro perché siamo in green chemistry, ok? E lo volete ridurre al propandiolo, 1-2 propandiolo. Dopo, questa roba qui ce l'avete nell'acqua, se ce l'avete, perché dovete idrolizzare, perché ci avete il sodio boriduro. Se fate la reazione già nell'acqua, è la fine. Se non ci avete messo l'acqua, ma l'avete fatta in un 2-metil tetraidrofurano, perché siamo in green chemistry, avete questo prodotto, ci aggiungete l'acqua, e questo qui dall'acqua non ce lo togliete più. L'unica possibilità è di idrolizzare questo composto con solfato di sodio decaidrato, matrice solida. Solfato di sodio decaidrato, gli eccesso di sodio boriduro o di quello che avete usato, litio alluminiduro, viene distrutto, si libera il prodotto di reazione che rimane nel solvente organico, perché l'acqua non c'è, e lo puoi estrarre dal solvente organico. Se no, voi fate questa reazione, fate il prodotto e non lo togliete più dall'acqua, non c'è niente da fare. O meglio, lo dovete prendere l'acqua, usare un estrattore Florentin industriale, farci passare un sacco di etere etilico dentro che non si può usare nell'industria, per estrarre dall'acqua il prodotto di reazione. Troppa fatica. Troppo spreco di solventi in estrazione. Anche se ti usi comunque un estrattore in continuo, quindi nell'estrattore in continuo di solventi ce n'è poco. Ma il solvente che si deve usare qui è l'etere etilico, perché sennò non ce lo porti via da lì. Devi usare un solvente che non sia solubile nell'acqua e che abbia alte capacità estraenti. E poi c'è un altro rapporto, che è il rapporto di amore con l'acqua, che è le reazioni fatte totalmente in acqua. Reazioni che sono imprevedibili. Come si fa una reazione in acqua? Com'è possibile fare una reazione in acqua se tutti i reagenti sono solubili in solventi organici? Allora, guardate che lo spunto ce lo ha dato la reazione di Diels-Alder, sulla quale ormai questa reazione di Diels-Alder si sa fare in tutte le salse. Allora, vi posso assicurare che gli studi più recenti, che risalgono peraltro a 10 anni fa, mostrano che la reazione di Diels-Alder avviene meglio in acqua che non in autoclave. Ai miei tempi, quando io venni in questo dipartimento, mi dissero che la reazione di Diels-Alder si faceva sotto pressione, col calore, perché i due reagenti si dovevano mettere insieme e convincersi il dienofilo a reagire con il meccanismo che Diels e Alder avevano messo a disposizione, con la simmetria che gli orbitali di Woodward e Hoffman avevano messo a disposizione, e veniva fuori questo prodotto. Ahimè. Ora sentirmi dire che gli studi recenti prevedono che la reazione di Alessandria avviene in acqua e se te aumenti la pressione la reazione viene peggio. Cioè non ci devi mettere la pressione. I due solventi, i due reagenti, il diene e il dienofilo, galleggiano nell'acqua e te li lasci in agitazione e la reazione prende via lo stesso. L'unica cosa che te puoi fare quando la reazione è lenta, aggiungerci quel catalizzatore in quantità catalitica che sarà solubile nell'acqua, che serve a legare i due diene e dienofilo come leganti e ad avvicinarli e tenerli vicini. Ovviamente non ci puoi mettere un acido di Lewis come la LCL3 nell'acqua, ma usi acidi di Lewis a base di samario, triflati e queste cose qua, che nell'acqua ci stanno benissimo, benissimo. Ma il problema non è quello. Il problema è che la reazione può avvenire tranquillamente, senza scaldare, anche se non ci metti niente dentro, nei casi più fortunati. Perché? Ecco, se io vi dovessi dire quello che c'è scritto in letteratura, vi dovrei dire non lo sa nessuno. Ma vi devo anche dire che invece sono state fatte delle teorie, e ce n'è una in particolare, soprattutto di colui che per la prima volta ha fatto una reazione di Diels-Alder nell'acqua. Io non lo so come gli è venuto in mente, probabilmente gli è cascato in acqua, stava a rotavapo, gli è cascata la... perché di solito succede così, no? E ha visto che la reazione avveniva. Allora, c'è una cosa che fa molto pensare, ed è veramente interessante questa cosa qui. Allora, la seguente. Questo è un concetto che è uno dei concetti più importanti della chimica organica, l'entropia. Allora, che cos'è l'entropia? L'entropia è una misura dell'ordine, per esempio, di una reazione. Siccome l'entropia aumenta sempre, questo vuol dire che le particelle si ordinano, non si disordinano. Quello lo dice la Chiesa, perché c'è scritto meno delta S. Le particelle si ordinano, quindi l'entropia e l'universo si sta raffreddando, tutto si simmetrizza, l'entropia aumenta sempre, è un principio questo, non è una legge, cioè è indimostrabile, perché il premio Nobel di Prigozhin ha detto: a me mi sembra strano che succeda questa cosa, però succede e bisogna prendere atto che è così. L'entropia aumenta sempre. Che cos'è l'entropia? L'entropia è quindi l'ordine, una misura di ordine, che aumenta sempre. L'entropia a che cosa è legata? È legata a tanti fattori, è legata a quelle che sono le equazioni della termodinamica, primo, secondo, soprattutto principio della termodinamica, delta E diviso T uguale delta S, sostanzialmente è questo il discorso. L'entropia è anche informazione, perché da un punto di vista statistico ed informatico, l'entropia di un oggetto è legato, cambiato di segno, ad un numero che rappresenta una informazione o un numero di informazioni che quell'oggetto ti sta dando. Da un punto di vista quantistico, l'entropia dipende esclusivamente dalla superficie che l'oggetto ha nello spazio-tempo. L'informazione quindi dipende dalla grandezza di questo cage, di questa gabbia, che rappresenta sostanzialmente in tre dimensioni la molecola. L'entropia tende sempre a diminuire, benissimo. Una cosa grande tende sempre a diventare sostanzialmente una cosa piccola. Perché la fisica quantistica e i principi della fisica di Bohm indicano che quello che conta in questa superficie, che può essere rappresentata come un'onda vera e propria, piena di informazioni, è la forma dell'onda. Beh, detto questo, si è scoperto la seguente cosa, che quando io metto il diene e il dienofilo nell'acqua, l'acqua voltano le spalle al diene e al dienofilo. Non hanno nessuna voglia di solvatarlo. Bene, cosa succede? Succede che si formano delle cage, delle gabbie di molecole di acqua che sono tutte girate con la faccia dall'altra parte e mostrano il culo al liene e al lienofilo. Non lo vogliono vedere. Ma facendo questo lavoro, le molecole di acqua si legano insieme e costruiscono una vera e propria gabbia di isolamento del liene da una parte e del lienofilo dall'altra. Queste due gabbie hanno un volume e quindi una superficie X. Quando due gabbie si mettono insieme, si aprono e si forma una gabbia che per problemi di entropia è più piccola della somma delle due gabbie iniziali. Essendo più piccola, l'entropia aumenta fortemente, ma soprattutto la pressione all'interno di questa gabbia diventa una pressione che in quel micro punto è la pressione di autoclave. In quel contesto avviene la reazione di Diels-Alder. Tutte le volte che noi riusciamo a fare una reazione di questo tipo, siamo riusciti a fare una reazione in acqua, perché l'acqua ha fatto da non solvente, ma facendo da non solvente ha fatto in modo che i due reagenti si unissero strettamente tra di loro e la reazione avvenisse. Le reazioni che evidentemente possono essere fatte, se questo è vero, sono le reazioni con i prodotti organici che non hanno neanche un gruppo che si lega all'acqua. Per esempio, nella reazione di Diels-Alder c'è un liene e un lienofilo che sostanzialmente possono essere dei idrocarburi, degli alcheni, degli alchini. Quando è che la reazione ti viene male? Ti viene male quando cominciano ad esserci degli alcoli, degli acidi, delle amine, per cui la gabbia di non solvatazione non si forma. Quindi i peggiori gruppi insolubili nell'acqua sono quelli che garantiscono la reazione dell'acqua, tutto al contrario di quello che si sarebbe potuto pensare. È una cosa incredibile. Le peggiori reazioni che si possono immaginare sono quelle che avvengono meglio, e tra queste c'è sicuramente la reazione di Diels-Alder. Quindi è una cosa incredibile. Tutte le volte che noi quindi abbiamo prodotti che abbiano una certa mobilità, che magari non siano sostanzialmente solidi, che siano degli oli magari, e che non abbiano gruppi che garantiscano un minimo di solvatazione, l'acqua li rifiuta, ma li rifiuta talmente tanto che in qualche modo li comprime, li ghettizza in solventi, in gabbie di non solvatazione, che aumentano la pressione all'interno. Allora guardate che c'è una cosa. Sull'acqua se ne parla tanto, perché sapete tutti quegli articoli sulla memoria dell'acqua del Journal Analytical Chemistry che si basano sostanzialmente sulla comprensione di come queste cage di molecole di acqua potessero mantenere una certa memoria. Se io metto una mano dentro l'acqua e poi la tiro via, dice l'acqua si ricorda che ce l'ho messa dentro a questa mano. Non è così, quella non è la memoria dell'acqua. L'hanno voluta spiegare in questo modo, ma la cosa non è così. Ma quindi in questo caso non serve neanche agitare? Agitare serve poco. Si agita perché almeno le molecole di liene e di lienofilo vengono messe insieme. Ecco. Non è il parametro eccezionale. Tant'è vero che la pressione peggiora le cose. Perché? Perché ora si capisce, la pressione spacca questi cage e quindi chiaramente ti diminuisce la velocità di reazione in modo drammatico. Una cosa importante va compresa. Dice, non è scritto da nessuna parte, però stiamo attenti a questa cosa qui, che è fondamentale. Visto che facciamo le reazioni nell'acqua, con tanta acqua, con poca acqua, cerchiamo di capire l'acqua cosa fa, perché sembra che sostanzialmente non l'ha capito nessuno. Non ci può essere una memoria dell'acqua e non ci può essere perché le molecole di acqua si attaccano e si staccano tra di loro con grande facilità. Vero. Però c'è un piccolo problema. Questo accade solo se le molecole di acqua sono tante e sono tutte attaccate insieme. Io stacco una molecola di acqua, se ne attacca da un'altra parte un'altra, e quindi l'energia che perdo da una parte perché ho staccato una molecola di acqua con il legame ponte idrogeno, la riprendo attaccando un'altra molecola di acqua. Quindi attacca e stacca da una parte e dall'altra, sono tutte energie che vengono messe in gioco e non si spende nulla. Prova a staccare due molecole di acqua sole tra di loro. E si scopre che rompere due molecole di acqua è di una difficoltà enorme, perché te c'hai due almeno legami ponti idrogeni che sono 100 e passa kilocalorie, cioè una quantità enorme. Perché l'acido acetico bolle a 135 gradi? Perché è un dimero. E prima di farlo passare in fase vapore, devi staccare due molecole tra di loro. Allora, non è vero che le molecole d'acqua hanno questi legami che sono facili da rompersi, per cui non esiste la memoria dell'acqua. Ci sono delle situazioni in cui questi legami localmente sono talmente forti, come nel caso della reazione di Alexander in acqua, che tengono fermi, stretti, sotto pressione, delle molecole che si agganciano insieme. Questo ci fa pensare che in alcune condizioni la memoria dell'acqua possa ancora essere una cosa reale. Infatti, la fisica moderna sta studiando questa cosa, l'ha ripresa in esame, e mentre prima si pensava che le cose non fossero così, ahimè, Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, ci ha pubblicato tre lavori sulla memoria dell'acqua l'anno scorso. Tre lavori sul giornale di fisica, tre lavori. A parte che Luca Montagnier, insomma, c'è qualche cosa di strano con le case farmaceutiche, interessi strani, però è interessante che la comunità scientifica stia riprendendo in considerazione questa cosa, perché la reazione di Diels-Alder ne è una prova sostanziale. Cioè, ci sono dei siti all'interno della soluzione acquosa in cui le molecole di acqua è col cavolo che si staccano tra di loro. Bellissimo. Detto questo, potremmo anche finire qui, siamo in orario, con alcune considerazioni finali, che sono alcune considerazioni tecniche finali semplici. Quando vi si chiederà nella vita, se vi si chiederà di organizzare una reazione ecosostenibile, partite dalla reazione come la conoscete voi e cominciate a togliere cose che non servono. Provate a fare la reazione in acqua, provate a farla senza, provate a farla senza solvente, provate a immaginarvi una delle tecniche che abbiamo messo insieme in questo corsettino, e vedrete che vi riesce sicuramente di trovare il modo migliore per portare avanti una reazione che costerà meno e che inquinerà molto meno. Detto questo, chiaramente bisogna essere anche un po' creativi, perché Green Chemistry ha sostanzialmente 15 anni, sostanzialmente, e il chimico green si riconosce quello vero per il fatto che non è un politico, per il fatto che non chiacchiera, per il fatto che fa le reazioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti quelli che chiacchierano tanto di verdi e palle varie non sanno niente della materia vera e propria della chimica. Per fare la chimica ci vuole un chimico, non ci vuole un politico. Questo che cosa vuol dire? Che il chimico che fa la green chemistry non solo deve sapere la chimica organica bene, ma deve sapere anche la green chemistry bene. Cioè deve essere uno che ha quattro palle, sostanzialmente, perché è molto difficile. Nell'ambito di questo corso abbiamo già visto un sacco di tecniche che sicuramente vi possono venire in mente, e se ci pensate un attimo lo potete applicare poi nelle reazioni più banali, veramente. Reazioni che non ha mai usato nessuno. quando io dicevo, beh, si potrebbe fare questa reazione così, figurati, questa roba è una cosa che fanno solo gli americani, invece poi mi veniva benissimo. Però c'è sempre da parte di chiunque la tendenza a il nuovo, quello che viene ritenuto nuovo, che poi non è nuovo affatto sostanzialmente, è nuovo magari per noi che non abbiamo la sensibilità in questo dipartimento di fare determinate cose, ma facciamolo. Io mi ricordo quando sono venuto in questo dipartimento, sono stato il primo sostanzialmente a aggiungere nelle tesi la risonanza magnetica nucleare al carbonio e la spettrometria di massa, e tutti mi dicevano, ma cosa lo fai a fare, tanto sono tecniche strane, e loro le fanno tutti. Sono stato il primo a insegnare la chimica con la retroanalisi del Warren, la retrosintesi, il primo a Pisa, e tutti mi dicevano, figurati, questa è una roba per gli americani, e ora poi la fanno tutti sostanzialmente, soprattutto a farmacia, dove sono rimasti i chimici organici un po' meglio di qui. Abbiamo fatto delle cose strane, abbiamo inventato delle reazioni e abbiamo inventato delle apparecchiature per farle, quindi ci vuole un po' di fantasia, perché il chimico organico è come uno che dipinge un quadro oppure che fa una statua, no? Sostanzialmente. Poi una cosa tecnica, dunque io rimango sempre a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che ci avete quando studierete questo esame. Non date l'esame al di là del 1° ottobre, perché io il 1° ottobre sono in pensione e scompaio dalla faccia della terra. Questa è la cosa fondamentale che va assolutamente